Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Incomincio a rivolgervi questo pensiero invocando la sapienza e la luce dello Spirito Santo, perché vorrei darvi un annuncio chiaro e preciso, ma non molto usuale nei nostri tempi. E cioè che la festa che celebriamo del Santo Natale non è tanto o principalmente quella commozione carina, mielosa, bella, il clima del Natale. Non è neanche principalmente il sottolineare la generosità verso il prossimo, anche se in questa occasione fioriscono tante iniziative benefiche, anche questo, ma come conseguenza del fatto che avviene oggi, e cioè che nasce Gesù Cristo, certamente, ma io dico che con Gesù Cristo nasce l'uomo. A quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da volontà umana, dalla carne, dal sangue, da volere di uomo, ma sono nati da Dio. E per questo il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi, per fare di noi dei figli di Dio. E lo diceva anche la seconda lettura, che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, papà, padre. Cari cristiani, volevo sottolineare questo avvenimento, che l'uomo diventa figlio di Dio con la nascita del Verbo fatto carne. Ma diventa figlio di Dio di modo che, se Cristo non fosse nato, l'uomo non avrebbe potuto diventare figlio di Dio. E cosa sarebbe rimasto? Una creatura puramente umana. Una creatura naturale. Mi viene in mente che quando ai miei tempi si studiava a scuola l'uomo a quale regno apparteneva, si diceva appartiene al regno animale, e in noi ragazzi suscitava stupore, dice ma come, l'uomo appartiene al regno animale? Così è naturalmente, l'uomo appartiene al regno animale. Se non venisse Gesù Cristo a fare di noi dei figli di Dio, per cui l'uomo appartiene al regno di Dio. Senza Gesù l'uomo non andrebbe in paradiso. Paradiso sarebbe chiuso, perché vi invito a leggere in filigrana, io che sto attento a questo, perché noto che nella celebrazione si ripete tante volte che Cristo è venuto per togliere i peccati del mondo, cioè per aprirci la porta del paradiso. Senza la nascita di Gesù Cristo l'uomo non sarebbe quello che è, figlio di Dio. Non sarebbe pienamente figlio di Dio. Non sarebbe pienamente spirituale, per cui possiamo dire che con la nascita di Gesù l'uomo diventa. Forse la prima orazione avrete notato che diceva siamo figli di adozione. Certo che siamo come creature di Dio, ma senza Gesù Cristo non siamo inseriti nella vita di Dio, e questo, amici, noi lo sottolineiamo troppo poco. Sembra che l'uomo possa vivere anche senza Gesù Cristo. L'uomo può galleggiare come una nave che non abbia timone, che non abbia motore, che non abbia meta, abbandonata in balia del mare senza Gesù Cristo. Purtroppo questo, amici, non è presente tante volte neanche nel cuore del credente, nel cuore del cristiano. Se questo è, che cosa ne deriva? Ne deriva che noi stasera, se siamo qui in chiesa, perché siamo cristiani, perché siamo figli di Dio, dovremmo per prima cosa ringraziare chi ci ha battezzato. Forse pensiamo poco ai nostri genitori come coloro che ci hanno aiutati a generarci nella fede. Ci commuoviamo davanti alla tomba del papà e della mamma che sono partiti da questa vita, conserviamo le loro foto, li amiamo, diamo magari il loro nome ai nostri figli, ma non teniamo presente quello che loro hanno fatto. Hanno fatto di noi dei figli di Dio. Il popolo cristiano un po' questo lo capisce, ma come sottotraccia, tant'è vero che il battesimo è ancora una grande festa. Vedo gente che fa migliaia di chilometri percorrendo l'Italia o venendo dal Sud America alcune volte o dall'estero per partecipare alla festa di battesimo, perché comprendono che è una festa di famiglia, che è una festa che tocca l'essenza di questa creaturina che è nata. Non vengono quando è nata, vengono quando viene battezzata. Dobbiamo ringraziare, cari amici, coloro che ci hanno fatto cristiani. Però questo subito ci fa comprendere che questo è anche compito nostro verso le generazioni future, e quanto di più c'è bisogno di questa avvertenza. Io noto che in tanti battezzati, in tanti cristiani, è scomparsa questa coscienza. Quando tuo figlio, tua nuora non battezzano il figlio e a te, nonna, mettono una spina nel cuore, quando dicono ma quando diventerà grande ci penserà lui, non hanno colto questa verità, che questa tua creatura che tieni in casa è ancora nel peccato. I nostri vecchi, che vivevano di fede, battezzavano un figlio appena possibile. No, oggi no. Oggi possono passare mesi, finché il padrino o la madrina non sono pronti, finché non c'è l'occasione di unire una festa con l'altra, così si dimezza la spesa. Ma tu sai che hai in casa uno che non è ancora pienamente figlio di Dio? No, non c'è questa contezza, non c'è questa consapevolezza. Addirittura qualche figlio ha il coraggio di gridare in faccia a suo padre: e perché mi hai battezzato senza chiedermi il mio permesso? Perché mi hai dato questo obbligo? E si assiste nel nostro paese, io quando ero parroco in una grande città, ogni anno ricevevo almeno uno o due richieste con raccomandata di sbattezzo. A norma della legge sulla privacy, articolo tal dei tali, chiedo che sui registri battesimali di codesta istituzione chiamata Chiesa Apostolica Romana sia annotato a margine del mio atto di battesimo che io rinuncio e non voglio più essere qualificato così. Capito, amici? Per questo noi dobbiamo prendere coscienza che il battesimo, che la nostra rinascita in Cristo Gesù che nasce oggi, ci fa figli di Dio. A quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare, il potere di diventare, non lo erano prima, figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Non ci si salva, amici, senza Gesù. Questo la Chiesa lo ripete da 2000 anni. Certamente in qualcuno di voi nascerà una domanda: e quelli che non sono cristiani? Ah, quelli che non sono cristiani, anche per loro Gesù è morto. Loro non lo sanno. Loro non hanno coscienza di diventare figli di Dio, ma loro sono salvati anche loro nel sangue di Gesù Cristo. Loro sono salvati anche loro nel battesimo. Altro che dire: non facciamo in Italia i presepi, togliamo i segni religiosi per rispetto delle altre religioni. È Gesù Cristo che salva, anche se non lo sanno. È Gesù Cristo che muore in croce anche per loro. Ma su questo sarà forse interessante intrattenerci in un'altra occasione, perché Cristo salva tutti, a cominciare da chi è battezzato. Per cui in questa notte santa di Natale diciamo: Signore Gesù, noi lodiamo la tua nascita, non solo perché ci porta a quel clima così tenero del Natale, di un bimbo che nasce, non solo perché ci dice che siamo tutti fratelli e dunque dobbiamo intraprendere gesti e azioni di vera fraternità, ma soprattutto perché tu ci fai veramente figli di Dio. Grazie, Santo Natale.